peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salt Peanuts. Sono diversi musicisti che, pur avendo straordinarie qualità da un punto di vista musicale e avendo anche un punto di rilievo nella storia del jazz, sono stati più o meno dimenticati, o perlomeno più in fretta dimenticati, perché ormai direi che sono molti musicisti che, anche se importanti e famosi, poi si dimenticano. Ma di questo gruppo di musicisti, senz'altro apprezzati meno di quanto meritano, fa parte Thomas Chapin, un sassofonista, flautista, musicista di rilievo importante. Ha avuto una carriera musicale molto intensa, molto ricca. È morto nel 98, aveva 40 anni, quindi morto di leucemia. Una fine che sicuramente ha tolto una parte importante di quello che poteva essere anche uno sviluppo successivo. È stato un musicista che è riuscito, direi forse come ben pochi altri, a tenere insieme il filo della tradizione del suo strumento e della storia della musica nera americana con quello che era anche l'avanguardia. Quindi un personaggio trasversale che inizia ben da giovane, era impressionato da Roland Kirk e da Jackie McLean, col quale peraltro studia, e si sente che studia con Jackie McLean. All'inizio degli anni Ottanta, quindi molto giovane, inizia una collaborazione con l'orchestra di Lionel Hampton, quindi niente di più tradizionale. L'orchestra di Hampton non era certamente più legata a quello che era il linguaggio del New Orleans, ma faceva parte di questa tradizione delle orchestre swing che ancora, e forse anche tuttora, poi ne rimangono, quindi una formazione storica. Lui ne diventa presto il direttore artistico e lavora per 5 anni con questa formazione, per poi passare ad altre strade, come ad esempio la formazione di Chico Hamilton, altra formazione tradizionale. Poi alla fine degli anni Ottanta inizia, con linguaggi propri, a cercare strade diverse, forma il suo trio, un trio che poi sarà probabilmente il punto di riferimento più importante della sua carriera, il trio con Mario Pavona e Michael Sarin. Prima era un altro, il batterista, ma comunque subito viene rimpiazzato da Sarin. Questo quindi, prima la tradizione, poi dopo un linguaggio più di ricerca. Quasi contemporaneamente, nell'89, entra, quindi mentre lavorava ancora con il gruppo di Chico Hamilton, entra in una formazione di rock, di free rock, molto arrabbiata e molto legata a quella che era la ricerca di sonorità nuove. E questa formazione si chiamavano i Machine Gun, una formazione che ha dato, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, ha prodotto 3 dischi. Di questa formazione era ospite, quindi era un quartetto più rock, ma l'ospite, diciamo, di punta, il musicista di punta, era Sonny Sherrock, un altro dei dimenticati, chitarrista che anche lui è morto poi nel 93, ha una carriera opaca, in ombra, con collaborazioni di altissimo livello, come quella con Miles Davis, per esempio, e con tutta l'avanguardia, penso da David Murray alla scuola di Chicago. Sono molti musicisti con i quali ha collaborato Sonny Sherrock, sempre con un'intenzione musicale particolare che sicuramente prendeva lo spazio anche dall'esperienza del free funky di Ornette Coleman. Questo gruppo è un gruppo interessante, sono interessanti le sonorità che producono. Ascoltiamo un paio di brani dal primo di questi tre dischi del Machine Gun, era intitolato Open Fire, un disco dell'89, e la formazione, la cosa interessante è sentire la sonorità elettrica distorta di Sonny Sherrock, ma anche appunto il sassofono legato molto al linguaggio d'avanguardia di Thomas Chapin. We'll be right back. thumb notch gauge repeats the rhythm and the beat, pulses in like a prayer. We'll be right back. Questo era il Machine Gun, una formazione nata nell'89, guidata soprattutto da John Rickey, che era quello che lavorava poi sulle tastiere, sugli effetti elettronici. E come ospite, un ospite che è rimasto poi per tutta la breve vita di questo gruppo, era Sonny Sherrock. Al sax abbiamo ascoltato Thomas Chapin, nel primo brano col sax soprano, nel secondo con il contralto. Quindi un linguaggio e anche un interesse musicale molto diversi tra questo che abbiamo ascoltato e per esempio la sua partecipazione nella formazione di Chico Hamilton, con musica ovviamente di tipo mainstream, tradizionale. E nello stesso periodo appunto inizia questa attività col trio, come dicevo, un trio che si esibisce e si lega in modo eccessivo probabilmente al lavoro nel locale della Knitting Factory, incidendo anche per l'etichetta che viene prodotta da questo locale, un'etichetta poco distribuita o distribuita con una certa fatica. In questo locale incide la maggior parte dei suoi lavori in trio e poi anche con altre formazioni, a modo di suonare praticamente con tutta l'avanguardia newyorkese, da John Zorn a Mark Feldman e a molti altri, un quartetto di tuba, sono diversi musicisti con i quali collabora, per esempio anche percussionista, uno dei percussionisti più interessanti dell'area di Chicago, ma legato anche alla ricerca in musica contemporanea, che è William Hooker, col quale poi tra l'altro ha inciso anche è uscito perlomeno un disco piuttosto poi pirata più o meno, con una registrazione di un loro concerto in duo, un disco sicuramente che presenta degli aspetti molto interessanti, dove Thomas Chapin lavora in totale improvvisazione, è una situazione totalmente improvvisata. L'occasione per parlare oggi di Thomas Chapin è fornita dall'uscita di un prezioso cofanetto di 3 dischi che raccoglie alcuni concerti, alcune situazioni poi registrate dal vivo, come per lo più le cose che ci ha lasciato Thomas Chapin. E questo cofanetto è per i primi 2 dischi con una formazione che oltre a Thomas Chapin al sax contralto e al flauto vedono Peter Madsen. Peter Madsen è un pianista che tutto sommato non ha lavorato moltissimo, si è collegato, intanto ha lavorato o in trio oppure con la formazione di Mario Pavone. Musicista più legato all'esperienza didattica e a un'attività diciamo di musicologica, ecco, quantomeno. Poi al contrabbasso Kiyoto Fujiwara e alla batteria Reggie Nicholson. Ascoltiamo con questa formazione, i primi 2 dischi appunto dicevo, sono soprattutto degli standard che vengono eseguiti, sono interpretazioni o reinterpretazioni di brani più o meno conosciuti, standard più o meno conosciuti, e qui si avverte con molta più chiarezza l'influenza di Jackie McLean, appunto il suo insegnante di sax. Il brano che ascoltiamo è una composizione che si rifà veramente alla tradizione swing, è di Artie Shaw, intitolato Moon Ray. È interessante anche come ha anticipato il tema di Morning, il famoso brano composto da Bobby Timmons e portato al successo da Art Blakey. Ascoltiamo una parte di questo brano. Mm-hmm. Thank you. questo era il quartetto di Thomas Chapin con il pianoforte Peter Madsen, e emerge la vena profonda che poi accompagna praticamente tutta la sua carriera, un po' anche nei vari stili, una vena profonda che si richiama al blues. In questo probabilmente anche l'affezione, la predilezione per Roland Kirk emerge in questo cofanetto di tre dischi. Nel lavoro in trio si avverte anche l'influenza di Eric Dolphy, sia al contralto che al flauto. In questo caso direi che proprio non viene in mente Dolphy, ma sicuramente viene in mente Jackie McLean oppure anche Roland Kirk. Adesso ascoltiamo un'altra formazione, il terzo disco del cofanetto, ha una formazione diversa, oltre a Thomas Chapin e sempre a Peter Madsen, gli accompagnano Scott Colley al contrabbasso e Matt Wilson alla batteria, quindi una formazione decisamente titolata, anche importante, prevalente diciamo soprattutto il contrabbasso di Scott Colley, che in alcuni momenti ha una veste un po' da protagonista in questa situazione. Comunque anche in questo caso il livello è decisamente molto elevato e le composizioni sono per lo più lavori scritti dallo stesso Chapin. Ascoltiamo due brani, perlomeno in parte, due di queste composizioni firmate da Tom. Thank you. Thank you. Questo era il quartetto di Thomas Chapin con Peter Madsen al pianoforte, Scott Colley al contrabbasso e Matt Wilson alla batteria. Con questa formazione, appunto, ricordo che è un cofanetto, uscito da poco, un cofanetto di inediti, di tre dischi di inediti registrati dal vivo di Thomas Chapin. In questa seconda parte è anche evidente un linguaggio più legato a quello che era il suo trio, cioè quindi molto dinamico, una sonorità nel sax contralto decisamente aggressiva e dinamica, e indubbiamente si rivela ancora una volta, si conferma che Thomas Chapin, pur così dimenticato, tutto sommato è stato uno dei più importanti sassofonisti, una delle voci più importanti di tutti gli anni 90 e che avrebbe potuto benissimo avere una rilevanza estremamente maggiore se non fosse prematuramente scomparso. Questo era anche l'ultimo ascolto per oggi e con questo vi ricordo che potete riascoltare questa trasmissione e anche avere tutte le informazioni discografiche nel nostro sito radiocittafujiko.it nella sezione di musica. Sol peanuts. Jazz on megahertz. Sol peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.